sottile raggio di sole, Gabi, la più affascinante étoile di varietà parigini, percepisce il giorno. Si solleva dal letto e lentamente si dirige nella sala da bagno. Apre il rubinetto e con la sacralità di una sacerdotessa versa nell'acqua minuscoli granuli che spandono nell'aria essenze di sandalo, vaniglia, petali di rose. Afferra un asciugamani e se lo avvolge intorno ai capelli come un turbante. Le sue unghie brillano di un porpora luccicante. Si slaccia la camicetta di taffetà e la fa scivolare lentamente fino al pavimento. La sua pelle morbida scintilla. La punta affusolata del suo piede si immerge nell'acqua profumata, seguita poi dalle caviglie, dalle gambe ed infine dai suoi seni turgidi, carezzati dalla schiuma. E basta, chi te bivo, basta. Me l'hai fatta diventare tosta. Interessante. Tutore di crescenza sarà pure nome merda assassina, ma ricchione no. Certo che voi guaglioni non avete un briciolo di ironia. E voi ricchioni perché non vi facite cazzo vostro? Perché ci piacciono troppo quelli degli altri. Vabbè, mo me rutto. Rilassati. Tanto non sei neanche il mio tipo. Anche se... Sì? Quando sei alla toilette, basta la giusta inclinazione e... Mi godo il panorama. Ia passa niente, dammi chi lo specchio. No, no, no, Salvatore, ti prego. No, ti prego, io col solletico impazzì. Damma. Sei così tristemente eterosessuale. Sienta, Marcè. Edi Lamar, prego. Sienta, Ed, come ti chiamo tu? Prima cosa non mi chiama Salvatore, che mi sposta nervatura. Salvatore mi chiamava che l'uomo è merda di patama. E come vuoi che ti chiami? Trinità? Buffalo Bill? Visto i giornaletti che leggi, eh? Totore, come mi chiamano a Casale? Al massimo Gesù Cristo, come mi sanno rindo spazio. No, no, no, no, ti prego, facciamo Totore, che tra l'altro mi ricorda anche il mio primo amore, un vigile del fuoco incontrato giù al cinema Eden. A guardarti bene gli somigli, sai? Mi refo poco spiritoso e ringrazio la Maronna che stai con mica. A molti guaglioni che lo come a te stanno in coppa e palla. Se capitavo con chissà cia, non è dicevo tutte sti stronzate. Oh, brutalizzato per un'intera notte, wow! Vaffanculo. Ecchia mia, dove era stata almeno ce potessimo fare, no? E cosa le femminile a me non mi fanno ridere. E allora facciamo un patto. Io cercherò di fare l'uomo, se tu in cambio mi dai lezioni di camurria. E chi? Tu stai fuori. Se accetti, giuro che non ti guardo più mentre vai al cesso. E per me è un sacrificio. Merito una ricompensa? Vabbù. Guardami buona. Non vira niente. È una questione palla, capisci? Tenere palla significa non solo saper sparare, ma soprattutto a dove sparare. Perché vedi, se spari a cazzo, l'uomo è merda ci può mettere pure 10 minuti a ghitto sangue. In faccia invece è come una scossa elettrica. T'abbasto come prima lezione. Dove hai imparato queste cose? Scampia, fuori dalla caffetteria Principe. Al principio marijuana, ascisce, poca cosa. Poi 3 anni fa finalmente la neve è una piazza tutta mia. Castel Volturno. Una carriera invidiabile. Senza mai alternative. E che alternative ci può stare per chi nasce a Melito, Arzano, Casavatore, o Triangolo Ramonnez? Si trasi in polizia da salvo, ma chi ci riesce? Fai prima a presentarti al capozona di turno. Già, da queste parti il sistema arriva sempre prima dello Stato. È questo il termine che devo usare, vero? Sistema. Che la mamma carnala ha fatto magnare i padri nostri. Ti ricordi bene? Altro che, è la prima cosa che mi hai detto quando ti ho chiesto sei tu il camorrista? E tu il professore di storia Ricchione? No, no, non di storia, di lettere. Sembra ricchionarista. In fondo io e te non siamo poi così diversi. Io rifiuto, sfraveco della cosiddetta società per bene. E tu, della tua. Che c'è? Ah, ho capito. Stai morendo dalla voglia che ti racconti ancora un po' del mio film, eh? E va bene. Dunque, dove eravamo arrivati? Ah sì, alla vasca da bagno. Completamente avvolta dalla schiuma, Gabi sente il torpore prendere possesso del suo corpo. Ad un tratto un rumore. Allarmata fuoriesce dall'acqua, indossa frettolosa il ricco accappatoio di taffetà e con passo felino si incammina verso la stanza da cui ha sentito provenire il rumore. Nulla di che. Un semplice colpo di vento ha spalancato le imposte. Rincuorata si dirige verso la finestra per chiuderla. Algeri le appare in tutto il suo splendore. La baia sembra aprirsi come un'enorme bocca pronta ad inghiottire piroscafi, transatlantici di lusso, navi da guerra, enormi cargo ricolmi di spezie e frutta provenienti da ogni parte del mondo, come per esempio, non so, gustosissimi mango, banane, datteri, per non parlare poi di prelibati ananas e papaya. E cazzo e basta, mo! I patti erano chiari. Niente fissa e niente roba da mangiare. Dove vai? A Giapiscià. Devo chiederti permesso. Tu a distanza di sicurezza. E allora che te ne pare? La scena della finestra era sensazionale, no? A me mi pare una stronzata. Però fa passo tempo. Come si vede che voi malati di camurria siete privi di ogni sensibilità. Ui, ne ha cominciato una volta che tu sento, non capisci? Oh, oh sì, ti prego, abusa di questo corpo, prendimi a botte, maltrattami, fammi tua! Ah, già dice la verità. Sei il primo ricchione simpatico che mi capita. È naturale, perché io sono Eddie Lamar, la regina del capriccio. Ok. Ma com'è che il capriccio? Quel locale giù alla riviera. È lì che il sabato sera, mio caro, si riunisce tutta la gran società finocchia. Ed era lì che fino a sabato scorso mi esibivo anche io. Se vuoi ti racconto di quella volta che ho conosciuto... Non mi interessa. Ma annanzo con film, che è meglio. Odioso. Algeri. Corridoio tra Occidente ed Oriente. Crocevia di odori malsani, lingue sconosciute, amori proibiti. Non c'era il sole a Marsiglia. Quel venerdì, quando il Normandia aveva preso il mare alla volta del nuovo mondo. Sulla banchina nessuno a salutarla, solo una gran voglia di fuggire, soprattutto da chi aveva preferito altre braccia alle sue. Sebbene il destino si fosse a lungo accanito contro di lei, Gabi non si era ancora abituata all'idea della solitudine. Sognava ancora braccia forti tra cui abbandonarsi nelle notti di paura. Eppure... anche questa volta il destino sembrava averci messo lo zampino. Un guasto in sala macchine. Il Normandì costretto a prolungare la sua sosta ad Algeri. Il rumore di tre colpi battuti alla porta la fa trasalire. Solo un'esitazione poi decisa si avvia verso la porta e la apre. Un giovane marinaio dai lineamenti medio orientali le consegna una busta. È da parte del capitano, che per farsi perdonare l'increscioso inconveniente invita tutti i passeggeri alla Taverne des Anges per una cena a base di ostriche, calamari, aragosti al prosecco. Ma allora mo fai apposta? Se pensassi a mangiare invece di guardarti le trance del padiglione di fronte, non staresti così allupato. Ma chi è guard? Chi sono loro che cacciano e zizza fuori? Sì. Cerca invece di concentrarti sulla storia, perché il bello, mio caro, arriva adesso. La Taverne des Anges. Il capitano de Ville, un bretone rossiccio in alta uniforme, accoglie gli invitati con ampi sorrisi. Gabi fa il suo ingresso affascinante più che mai. Mademoiselle Gabi, spero che vorrà dedicarci qualcosa stasera. L'orchestra attacca Blue Moon. I camerieri circolano tra i tavoli con vassoi ricolmi di ostriche, crostacei, vongole. Ok, arrivo subito al dessert. Eh sì, perché poi in fondo è proprio al dessert che accade il colpo di scena. Gabi si sente osservata. Gli occhi di Ahmed la fissano come se volessero entrarle nell'anima. Lei ne è talmente rapita che non sente nemmeno il capitano De Ville che l'annuncia. Sulle prime note come un automa si alza ed esegue quella canzone soltanto per lui. Ad un tratto, gli occhi di Ahmed sembrano bruciarle nell'anima. Lei capisce che lui la vuole e lotta con quanta forza, ma nulla può contro la sua virile arroganza. E in fondo lei è soltanto una donna, costretta a subire il desiderio di un uomo. Beh, ma che cosa da ridere, eh? Rido di te, Eddie Lama. Certi volte ti senti così femmina che ti scorda che la casi. Ah sì? E perché, che cosa sarei, sentiamo? Un frocio, forse? Quando è bello. Tanto lo sanno tutti, mio caro. Li hai letti i giornali? Edizione straordinaria. Professore di liceo corrompe un suo alunno. Ah, era pure un tuo alunno? Non è come credi. Allora Guaglione si è inventato tutto. Oh, Guaglione, a titolo di cronaca, è il figlio del giudice De Marino. Lui era al capriccio sabato scorso. Azza, ricchione purissa. All'inizio non mi aveva riconosciuto, poi si è avvicinato e mi ha chiesto la roba. Quando gli ho detto che manco la toccavo quella merda, si è incazzato e mi ha detto che se non gliela procuravo immediatamente mi avrebbe smerdiato per mezza Napoli. Poi mi ha costretto a... Sì, insomma, hai capito a fare cosa. È stato allora che è arrivata la polizia. Poi è intervenuto il padre, che per timore che raccontassi tutto, chissà con chi ha parlato. È così. Sono finito qui dentro. Adesso capisci perché preferisco fottermene della realtà. Comoda così, eh? Quando ti spasteri, studi tutto a diviendetto come ti chiama tu. E se pure fosse, perché non dovrei? Che cosa ti resta quando quello che ti circonda ti fa soltanto venire voglia di morire? Guarda laggiù. Le luci dei palazzi sembrano vicini, posso quasi toccarli. Riesco a distinguere esattamente anche i balconi, le paraboliche sui terrazzi, perfino una donna che sta sparecchiando. L'immaginazione, che grande magia, a questo serve, a non impazzire. Ananas alla crema con frutti di bosco. Delizioso. Ne vuoi un po'? Almeno potresti rispondere. Tanto lo so perché stai così. Domani è giornata di colloqui, non vedi l'ora di rivedere tua moglie. Che ne sai di lei? Beh, la foto, no? È tuo figlio? Carino. Perché non ti vuole vedere più? Fine buono è venuto perché ho creatura te ne va a freva. Rimane però se Pascalina sta meglio, porto pure a essa. E allora che cos'è quella faccia da funerale? Su, forza, datti una sistemata che hai un aspetto terribile. Rivedersi dopo quella che è successa. Uno non sa manca che sa da ricere. Come l'ha presa? Male, credo. Immagino che fosse molto legata a Don Alfonso Minniti. Per via di Gennarino, vero? Non ti sorprendere. Te l'ho detto. All'epoca del fattaccio ho letto tutto su di te. Quanti anni teneva? 9? 10? 10 anni e parte nostra non significano niente. E morire con una pistola a mano è solo un modo per interrompere una condanna. Già, la condanna di essere nati da queste parti. Sono parole di Don Minniti queste. Non teneva mezzi termini lui. E non ne ebbe manco il giorno del funerale. Oggi non è morto un eroe. Quando la bara uscì dalla chiesa, fe come si sezzasse in mezzo a la folla, senza nome e senza faccia. Tutto attorno i guagliuni allucavano. Gennarino, Gennarino. Fui tanta che a casa Pesenna cominciò bordella. Piatte e bottiglie in gol la polizia. Una volante bruciata. Era guerra. Che la guerra mai dichiarata contro assustato, bastardo e traditore. Fino a quando non intervenne Don Alfonso? Due giorni di trattative e i cassonetti furono rimossi. La vostra famiglia ebbe un bel indennizzo e tutto fu messo a tacere. Per questo Rosa gli era così devota. E per questo voleva che fosse proprio lui a dare la prima comunione a Pasqualino, l'altro figlio tuo. Quando? Domenica prossima. Senti, io rispetto la tua decisione di non parlare, però sappi che fino a quando non dirai perché hai ammazzato il prete, tu passerai per un infame. Don Minniti era un simbolo, un'istituzione, lui era... Non me merda! Ecco chi era! E mo basta. Uvo capì che non voglio essere amica in un ric... Non temere. Dillo. Per voi è come se fossimo malati, vero? È come se tenessimo un virus. Una salmonella schifosa. E invece no. Nessuna malattia. Nessuna infezione. Non come la sifilide o i condilomi, che ci portate con il vostro sperma schifoso la notte, quando ci venite a cercare a Reta Cocco Camion parcheggiato. Voi padri di famiglia rispettabili e noi poveri froci. Ma che ti tolga a te, uomo normale? Se amo, rido, mi incazzo, sono felice non come un uomo, non come una donna, ma come me stesso. Vedi, io almeno riesco a raccontarmi. Mentre tu resti lì, zitto, muto, in silenzio. E questo ti rende migliore di me, vero? Ti fa sembrare più uomo. E come te tutti gli altri, eh? Tutti impegnati a dimostrare di avere le palle. Perché con merito tu sei palla, Fanom. E allora me lo spieghi che differenza c'è tra il tuo e il mio sistema. Nelle grandi e piccole tragedie siamo tutti schifosamente colpevoli. Tutti. Una volta un prete mi disse che la mia solitudine era un chiaro avvertimento di Dio a cambiare strada. Dio, sapessi quante volte l'ho chiamato, quante volte l'ho pregato di parlarmi. Mai una voce e neppure un segno. Lui se ne sta là, Dio, sulla sua croce, con le mani trafitte, e non schioda me dalla mia. Io racconto il film. Non appena Gabi termina la sua esibizione, con lo sguardo cerca lui tra la folla. Ad un tratto uomini armati irrompono circondando il colonnato e bloccando tutte le uscite. Sono l'ispettore Marsier. Abbiamo fondati motivi per credere che il pericoloso criminale Ahmed Bejadi, autore del furto della corona di Chartres, fosse qui stasera. Gli occhi dell'ispettore si posano su Gabi. Mi risulta, mademoiselle, che Bejadi si sia rivolto a lei prima di far perdere le sue tracce. Stacco sugli occhi bellissimi di Gabi. Fine del primo tempo, luci in sala, intervallo. Allora mo esce nei gelati. Gelati, popcorn, patatine. Una patatina, signore? Vatten, per me solo roba originale. Bugiardo, ti vedo come sbavi con quelle orride trance del padiglione di fronte. Ah, credimi, Salvatore, tu sei una delusione. Per anni ho sognato di poter finalmente capitare in una cella di un carcere, sotto un vero maschio delinquente. Arrivo qui e nemmeno il cazzo. Quello te lo puoi scordare. No, te lo puoi tenere caro tu. Se tu ti chiamassi a me, allora sì, che io potrei innamorarmi. Ah, l'amor. Sapessi quante volte ho creduto di incontrarlo. Ma chi? Ma come chi? L'amore, no, cretino! Che per me aveva un solo nome. Antonio. Antonio? Mm-hmm. E chi è mo Antonio? Antonio faceva il barman. Agitava uno shaker pieno di un invitante barracuda, rum, ananas e porto che subito accese in me delle strane fantasie. Sospettavo di essere di fronte alla mia sedicesima delusione, però ciononostante capii subito che quello apparteneva alla cosiddetta zona grigia. Zona che? Ma come che la zona grigia? Sarebbe la zona dei famosi froci dentro ma maschi fuori, no? Oh, e come andò a finire? Come andò a finire? Mi confessò di essere fidanzato, naturalmente. E confuso. E così mi chiese del tempo. Poi una sera, all'improvviso, un messaggio sul telefonino. Ho sbagliato tutto. Non odiarmi, scusami. Anto. È così. In un attimo tutto svanisce. E ti ritrovi da solo, di notte, nella tua stanza, col cuore che ti martella in petto e ti toglie il respiro. E allora capisci che non basta sentirsi Hedy Lamarr per vincere la paura di vivere. Allora ti sforzi di tornare alla tua vita di sempre, ad aspettare. Aspettare cosa? Chi? Lui, l'uomo aquila. È da bambino che lo sogno, sai. Mi illudo che presto verrà. Spalancherà la mia finestra e mi porterà via con sé sulla sua isola d'incanto. E allora non esisteranno per me più tramonti di bronzo, ma soltanto albe di luce. Ed io sarò felice e suo, completamente suo. Anche se so che questo non è possibile, perché un uomo aquila in quanto uomo, ciò che desidera è una vera donna. Una donna come lei. Se Antonio fosse stato un vero uomo, non si sarebbe cacato sotto di buttare all'aria la sua vita. Ma sentilo il gelosone. Ma che cazzo dice? Non puoi parlare ad un uomo di un altro uomo senza farlo incazzare. Sì, intendo come ti chiamo tu. Non dici le stronzate che tu sento, non capisci a mucca. Over. E allora fammi sentire tu com'è fatto non mover. E c'è. Ti cacchi sotto pure tu. La verità la sai qual è, è che veri uomini non ce ne stanno più, né veri uomini che sanno sparare, né veri uomini che vi dovrebbero togliere le pistole di mano. Siete tutti soltanto dei froci. Froci, più froci di me. Soltanto degli sporchi. Schifosi, froci. Ma quando cazzo ci chiama? Rilassati. Tanto prima delle 9:30 non arriva nessuno. Marcè. Che c'è? Stanotte sai che pensavo? Che nonostante sia un cacacazzo, mi piace come racconti le cose. Lo sapevo, che prima o poi saresti stato proprio tu a chiedermi di raccontarti il mio film. Pure dobbiamo aspettare. Allora, Gabby è ancora commissariato. È notte fonda, quando finalmente Gabby lascia la stazione della Gendarmerie. Quella che doveva essere una semplice formalità si era via via trasformata in un vero e proprio interrogatorio. Ad un tratto un lampeggiare di fari. Gabby scorge in lontananza una Jaguar nera. Attraverso il finestrino un uomo la fissa. Monsieur Béjadi l'attende. Decisa, sale su quella macchina. State zitta, Marcè! Ci siamo! Oh, finalmente. Solo non capisco. Che c'è? La guardia. È andata via. Ma che cazzo stai dicendo? Ui! Oh! Arapo, me merda! Arapo! Smettilo, lo farai incazzare. Tu non sai di che cosa è capace quell'uomo. Ossaccia troppo buono, invece. Si è presentata appena sono arrivata. Tu sei che la chiave che ha acciso prepata. Ma ho battesimo dramma nuia. È statissa. Sono sicurissa che nulla avrà fatto sagli, che l'ho meluta. Ma che dici? Magari tua moglie avrà avuto un contrattempo. Che ne sai, eh? Te l'hai tissa. Parla. Stamattina ti è venuta a chiamare. Mi ha soltanto avvertito di un pacco in arrivo. Lo sai che mi dà una mano e... E tu in cambio, che ce fai, eh? Lasciami, lasciami, mi fai male. Ecco perché mi fanno schifo che lo combatti. Perché vi vendete per poco e niente. Te l'hanno mai spiegato che significa nascere nel triangolo della munnezza? Montagne di cemento, palazzo tutto uguale, paese attaccato uno con l'altro, tutte stesse. Senza identità, senza storia. Attraversate da strade non fatte per auto, ma per vestita, scarpa, borsa, smerciate dall'industria del falso che ha fatto a diventare sto triangolo della munnezza la Las Vegas del Sud. Sapesse quanti vota, Gitta? Ma fornisco questa vita e per fa che? Per farne abbascia una che li fabbrica che nascano a migliaia sotto scala abusivi di questo Nevada del Sud. 10 ore fatico giorno per 1200 euro mese. No, grazie. E poi Rosa... di tutto questo l'ha già fatto per essa, capisce? Per essa e per creatura. Loro so tutto per me. Tutto. Mi creda, signor giudice. Gliel'ho chiesto più di una volta, ma del prete non ne vuole parlare. Come dice? La moglie. No, credo che non sospetti nulla. Lo so che il riesame discuterà il mio caso lunedì prossimo, ma lei mi assicura che se collaboro manterrà la promessa. Sì, certo. Io intanto fino ad allora cercherò di portare le novità. Uscire e tornare da mamma è tutto ciò che desidero. Mamma. Non bastava un marito che la tradisse. Anche un figlio diverso. Frocio di merda. Aveva sentito una volta gridare nel quartiere. Quello che ha provato io non lo so. Posso soltanto immaginarlo. Finse di non capire. Anche se i risette, le allusioni erano come spilli terribili conficcati sempre più a fondo nel suo cuore già debole. Ah, mi scusi, dimenticavo. Siccome gli ho detto stamattina che sarebbe venuta mamma, ecco, non vorrei che vedendomi tornare a mani vuote potesse insospettirsi. Se mamma fosse venuta, mi avrebbe portato un pacco pieno di tante cose buone da mangiare. Grazie, signor giudice. Grazie. Salsa tartara, senape bavarese, cuori di palma. Oh, oh, guarda, c'è anche la crema chantilly. Quante cose che mi ha portato mamma. Anzi, che ci ha portato. Eh già, Salvatore, perché da oggi in poi io non voglio più che tu mangi quella porcheria di cibo del carcere. Eh no, no, mi occuperò io personalmente di te. Vedrai. Ti toglierò per sempre quella malinconia dagli occhi. Mangiare in fondo poi dicono che sia un ottimo deterrente contro l'infelicità. Ti prego, non fare così. Sono 24 ore che te ne stai steso su quella branda. Capisco che Rosa non è venuta, ma... Quando trovano quintale e merda fuori a casa, il segnale è chiaro. Ma che stava la peffrata, ma... Vedrai che... Questa è nata storia. Vedrai che con il tempo... No, la conosco. È come se una porta si fosse inserrata per sempre. Nessuna porta si chiude per sempre. In fondo basterebbe parlarsi, raccontarsi a viso aperto quello che è successo. Non posso. Le parole si fermano qua. Come se fosse facile sbloccare i ricordi. I ricordi sono come preta. Una volta che arrivano in fondo all'anima, s'appantanano. Quando arrivai in ospedale, che puzza. Una puzza più forte della criolina che di tempo manavano per casa pesenne per pire zoccola. Genarina stava là, goppa una lastra e marma, sotto una luce bianca, tanto forte che mi diceva, ma perché ha morta da tenere tanta luce? L'occhio verso soffitta, occhio che brillavano, lucevano come lampara a mare o come stella quando addivento verano desideria che la luce chissà può scordà come chi l'occhia quel giovedì uguale a tanti altri giovedì tranne per la dure pastiera che si sentiva ogni angolo e via una consegna zompata uah muova che piglia primo piccirilla. Non fa niente se esce prima lo catechismo. La porta annanza sacrestia chiusa. Sono una singa. Appena non filì le luce ianca. E attraversa che la singa che l'occhia. Occhia che non brillavano. Che mi guardavano. E essa con l'occhia pazza. Occhia senza pietà. Che io va annanzi a rete. Annanzi a rete. Annanzi a rete. Salvatore, per amor di Dio, tenetta puro coraggio in un manaddia. Poi lo sparo. Lo sangue schizzato un coppo quadro San Girolamo. E Pascalina zitta, muto, l'occhio sbarrato. A chi lui urna mai più una parola, perse rinda natumunna, senza essere più creatura. Dunque, è per questo che Rosa ti odia. Ti considera responsabile di... Ma se non sa la verità, perché crede che tu abbia ammazzato il prete? Lei, come tutti, pensa che mi sia venduto a loro. Già, la faida. 3 mesi fa, Carmine D'Urso fece ammazzare Michele Farace, figlio del boss di San Cipriano, colpevole di avere sfottuto per strada una delle sue nipoti. Lo trovai in coppa a spiaggia Mondragone, mani e piedi legati, a bocca rignute sabbia ammiscata cacavace. Un avvertimento chiaro e preciso per tutti a non spostare cavù. Ma allora perché non parlare? Perché non toglierti di dosso questo marchio infame? Già, già perso una figlia e non voglio perdere pure a Pascalina. Figlia, ma non deve subire una seconda volta che la caghi l'omma e merda l'ha fatta. Ma tu non puoi capire. Non sei nata che sti parte. Che l'infamia te lascia un quello no marchio che peggio qualsiasi crimine. Possibile che non ci sia mai un finale meno annunciato. Mi dispiace, ma il lieto fine non è articolo Romi. L'esclusiva tiene tu. Magari. Sai quanti finali della mia vita avrei cambiato. E poi sei davvero sicuro che i miei film siano a lieto fine? Che ci yugam? Facciamo così. Chi perde dovrà accontentarsi di un desiderio dell'altra. Che dici, ti va? Niente scherzi però, sennò mangazzi. Senti a questo. Dunque, dove eravamo arrivati? Ah sì, alla Jaguar Nera. Conduce Gabi verso la villa di Ahmed. Lui appena vede apparire lei l'abbraccia. Una musica triste e malinconica trascina l'uno nelle braccia dell'altro fino ad amarsi per tutta la notte. Al risveglio Ahmed le confessa. Sì, è vero, ho ucciso. Ma se l'ho fatto è stato per il mio popolo e per la sua libertà. Vieni, voglio mostrarti qualcosa. Così detto, estrae da una cassaforte un piccolo involucro di velluto rosso e lo apre. Una tempesta di diamanti scintilla davanti ai suoi occhi. La corona di Chartres. Già, proprio stamattina ho fatto recapitare al console francese una richiesta di riscatto di 300.000 franchi. Solo così Algeri sarà finalmente libera, e tu ed io uniti per sempre. Prima però dovrai farmi un favore, portare questi diamanti sulla rocca di Algeri e consegnarli all'ispettore Marcier, l'uomo incaricato dal console per il recupero della corona. Gabi accetta. È notte fonda quando giunge lì finalmente sulla rocca di Algeri. Bene, dice l'ispettore Marcier. Deve amarlo davvero tanto per macchiarsi di un crimine così ignobile. Mi dia i soldi e riavrà la sua corona. Non vada di fretta, mademoiselle. Vede, c'è qualcosa che mi preme molto più di questa corona. Te, così detto, lì si avvinghia contro baciandola con forza. Gabi urla con quanto fiato ha, ad un tratto un colpo di pistola. Senza un lamento Marcier si accascia al suolo e alle sue spalle appare Ahmed con la pistola ancora puntata. Gabi si precipita felice tra le sue braccia, ma il destino ha già deciso la sorte di questo disperato amore. Un ultimo anelito di vita e Marcier punta e colpisce dritto la schiena di Gabi. Gabi muore. E lui la sente cantare come non l'ha mai sentita cantare prima. Canta il suo eterno amore per lui e lo prega di non piangere perché il suo sacrificio non è stato inutile. Fine. Scommessa vinta! E adesso preparati a pagare. Non hai neanche idea di che cosa abbia in mente per te. E se mi rifiuto? Oh, mi dispiace, i patti sono patti e tu sei un uomo d'onore, eh? A meno che se tu ammettessi che ti è mandato tutto cosa, la scommessa cadrebbe e a pagare avessi essere tu. Già, ma io non ci penso affatto a una cosa del genere. Ne sei proprio sicuro, sì? No, ti prego, consolentico, no, per favore, no, Salvatore. Ossaccio, hai fatto l'errore di dirlo una sera. E va bene, ti prego, basta, è vero, ho mentito. Dunque, il finale non è questo, è un altro. Gabi ammazza Ahmed, ruba la corona e fugge insieme all'ispettore Marsi sulle isole Bahamas, subito dopo aver scoperto, per puro caso, le sue super doti nascoste. Che strano. Cosa? Ad un tratto non ho più dolore. Quale dolore? Mi prende qui, sin da bambino. Non so perché, ma quando sono con te io mi dimentico di tutto. Scusami, ti ho messo in imbarazzo. Se accetto il patteggiamento, il giudice potrebbe concedermi la libertà provvisoria, sai? Quando? Questo non si sa. So soltanto che entro 24 ore forse sarò costretto a trasferirmi in un'altra cella. Pare che sia la prassi. Beh, e che è che la faccio? Oh, e asci, fatta una rasata. Che strano. Per tutto il tempo che sono rimasto chiuso qui dentro, l'unica cosa che mi ha fatto andare avanti è stato il pensiero di uscire e di tornare a casa. Adesso io non lo so che mi prende. Ma che stai dicendo? Fui tenna. Cadinda sa diventa più bestia e quella che ci ha fatto a diventare camurria. Come chiama tu? Sorridi. Presto rivedrai tua madre. Mia madre. Mia madre ha avuto la sua vita e l'ha vissuta. Quando tutto si spegnerà resteranno i ricordi a parlare di lei. Che cosa resterà di me? Quando cambierà la mia vita? Quando si spalancherà la mia finestra? Quando arriverà finalmente anche per me l'uomo aquila? Pensa solo che stai per uscire da questa fogna. Uscire? E per fare che cosa? Tornare in quel locale di merda? Muovere il culo su e giù mentre la gente ride a crepapelle? Oppure andare in giro con i miei amici? Un branco di stupide checche più stupide di me. Inutili serate spesi a sfoggiare sorrisi finti, a fare finta che tutto vada bene, invece no, perché io non sono più quello di prima. E loro, gli altri, li vedo per quello che sono: specchi sporchi e deformanti che distorcono la realtà. Ghiammia, raccontami un altro film, che forse è meglio. No, Salvatore, ti prego, sono stanco. Ho di nuovo male dentro. Chissà perché il dolore, quando cala, è come la sera. Non fa mai rumore. No, ti prego, non mi toccare. No, non posso, non voglio. È così umiliante. Mi fa solo stare peggio. Oh, vieni qui, ti prego. Stringimi. Soltanto per un attimo. Sapessi quante notti ho desiderato di baciare questa ferita. Quante notti ho immaginato di sentire quel sapore aspro che sa di violenza, di lampioni color ghiaccio, di litorani e invasi di rifiuti di puttane. Ma che dici, tu sei pazzo? Ecco, ora Gabi è qui, davanti al suo Ahmed, nuda, è pronta a dare tutta se stessa, tutto il suo corpo, senza paura, senza rimpianti. Ma che stai facendo? No, non dire nulla. Prendimi come Ahmed prenderebbe la sua Gabi e come Gabi vorrebbe essere presa. Amami. Allora hai capito? Fa passare un paio di urne, poi chiama. Telefono pubblico, ma raccomanda. Niente stronzato con cellulare. Però non fa un nome mio, se non essere sicuro di ora. E dici che eri amico di Don Minniti. Ma sei impazzito. Se dovesse chiamare la polizia? Stai tranquillo. Chiedi che sapa che non ha mai a me, guardia. E se dovesse chiamare quegli altri? Lievatella da capa. Rosa è pulita. Per sicurezza però pigli appuntamento a Napoli. Di giorno. Un posto affollato, tipo Pignasecca. È più sicuro. No, Salvatore, ti prego, non posso. Ho troppa paura. Ma paure che? In fondo è solo una telefonata. Ma certo che tiene una bella faccia tosta. Non soltanto mi chiedi di fingermi amico di Don Minniti, quando poi pretendi che le consegni una lettera in cui chissà che c'è scritto. No, Salvatore, per favore, tienimi fuori da questa storia. Marcè, guardami. Non sei stato tu a dire che dovevo parlare. Che se ci stava una speranza non l'avevi età. Babbo, ha già capito. Gabi non voleva innamorarsi di Ahmed, ma che cosa poteva farci? L'infinita e travolgente tristezza del suo sguardo l'aveva ormai resa schiava. Non sono riuscito nemmeno in questo, Salvatore, a toglierti quello sguardo triste dagli occhi. Sei riuscito in altro, a farmi capire che esistono tanti modi di essere uomini. Salvatore, forse lo so che non ci rivedremo mai più, ma un'altra cosa sento di chiedertela. Modo stai, Largan. Prima però promettimi una cosa. Non posso, te l'ho già detto, non posso. Non quello. Promettimi che da oggi in poi non subirai più in silenzio per nessuna motiva. Se c'è rimasta una speranza in questa terra maledetta a parlare, il silenzio è camurria. Sparatoria oggi nella centralissima via Tarsia. Due uomini in sella ad uno scooter hanno fatto fuoco tra la folla. Vittima Marcello Di Girolamo, 43 anni, ex professore di liceo, recentemente coinvolto in un'indagine su presunti abusi sessuali. Illesa la donna che era con lui, che però ha fatto perdere le proprie tracce. Le modalità dell'assassinio fanno propendere per un'esecuzione di stampo camorristico, confermando l'ipotesi che l'omicidio sia da inquadrarsi nella feroce faida Farace d'Urso che da mesi insanguina l'agro aversano. Determinante sarebbe stato l'interrogatorio a Salvatore Di Crescenzo, ex compagno di cella del Di Girolamo, trovato però pochi giorni dopo la notizia dell'uccisione del professore, morto per impiccagione. In assenza di possibili notizie sulle quali indagare, la polizia ha deciso di archiviare il caso.